dopo 30 anni di vita e d'amore uniti, trovammo negli occhi felici più ricca la voglia di un mondo migliore. Quel giorno la nave si fece più rossa, più grande di vele ed ancora più rossa, più forte ed unita e ancora più rossa, al cesse la vedi la nave più rossa. Le case occupate, i prezzi assassini, i disoccupati, i cassa integrati, le scuole fantasma per troppi bambini, i letti fantasma per troppi malati. E sull'autostrada uscita baracche, il pedice grida vogliamo la casa, i terremotati e le vecchie baldracche, ci ha dato uno schifo chiamato autostrada. Oggi in Sicilia la nave più rossa e anche in Sardegna la nave più rossa, a Napoli, a Reggio la nave più rossa, di Olanda lo vedi la nave più rossa. Il 16 giugno si fece gran festa cantando 30 anni di vita e d'amore, uniti trovammo negli occhi felici più ricca la voglia di un mondo migliore. Ma quanto dolore per dare allo sfolo di te fantasia un attimo della lotta e per cantare la